Ascolta! Sagit al bosco e gli alti pini antichi, col sol correnti, con le giganti braccia. Ascolta, ascolta! Nella valle un ululato di mille voci odo sonare. S'accosta l'infernale con greve.